Dicevo che vorrei subito integrare quello che ha detto l'avvocato Minelli, dicendo che il libro è anche una festa per chi lo legge, perché io ho avuto piacere di leggerlo e devo dire che l'ho apprezzato molto, quindi questo ha doverosissima integrazione di quello che lui ha detto. Poi prego Monsignor Roger di interrompermi se andrò troppo per le lunghe, perché ho preso tanti appunti e temo di avere poi esagerato. Devo dire come prima cosa che io ho un compito facile, perché il libro praticamente oggi si potrebbe presentare da solo, almeno per tre buone ragioni. La prima è il nome degli autori, che tutti ben conoscono. Il secondo le dimensioni, sono le dimensioni stesse di questo libro, che voi lo vedete, attesta grande ricchezza non solo di dati, ma devo dire anche di idee. Il terzo punto che va a suo pregio è naturalmente il prestigio, non devo dirlo io, della casa editrice Morcelliana, che in questi tempi di mercato un po' selvaggio ha avuto diciamo anche il coraggio, se vogliamo, di pubblicare un libro che non è facile e che io credo che avrà senz'altro un grande successo, non il successo dei bestseller effimero, ma quello dei long seller, che resistono nel tempo e vengono acquistati, diventano dei classici, insomma, perché il libro in effetti ne ha tutte le caratteristiche. Dunque, il libro contiene, venendo ai dati informativi, contiene spazia per circa tre secoli, parte dalla letteratura, dal corpus neotestamentario, per giungere fino all'età di Costantino, quindi siamo intorno ai 300 anni e diciamo la cesura ideale, la cesura ideologica ideale rappresentata dal Concilio di Nicea, naturalmente tra il primo e il secondo volume che è in corso di stampa, e potremmo scegliere come suggello, come cesura invece letteraria, la vita di Costantino dello Pseudo-Eusebio, Eusebio, che arriva appunto alla morte di Costantino e 337, e quindi chiude questa prima fase idealmente della letteratura greca e latina cristiana. Per la precisione aggiungo che il professor Morelli ha curato la parte greca e il professor Moresini ha curato la parte latina. Il secondo volume è in corso di stampa, credo che sia prevista la pubblicazione per la fine, entro l'anno, insomma, grosso modo entro l'anno, insomma, e giungerà fino al VI secolo compreso. Il volume, lo dice il titolo, si occupa della letteratura greca e latina, ma fortunatamente non è del tutto vero, perché invece spazia anche, giustamente, fortunatamente per noi, anche nella letteratura in altra lingua, specialmente quando i corrispondenti testi greco-latini non sono disponibili o non ci sono giunti per frammenti. Ad esempio, è concesso ampio spazio al Vangelo di Tommaso, che ci rimane in una versione copta, e è concessa ampia parte anche la dimostrazione di Ireneo di Lione, che abbiamo in armeno, la versione greca è scomparsa. Quindi diciamo che, come prima cosa, questo libro è più di quello che promette di essere, quindi è anche una letteratura, oltre che greca e latina, anche che dà spazio a testi che ci sono, per testi cristiani ovviamente, ci sono pervenuti nelle lingue nelle varie lingue orientali, quindi è una ricchezza notevole anche da questo punto di vista. Che cosa voglia essere il libro? Ce lo dicono gli autori nella prefazione, quindi io non faccio altro che ripetere. Lo presentano così: una sintesi dedicata alle forme letterarie cristiane considerate nella loro globalità. Il taglio dunque è dichiaratamente letterario. Gli scritti cristiani vengono analizzati e valutati in relazione alle loro caratteristiche e al loro significato letterari. Questo è il punto di partenza. Per converso, quindi, il volume non è né vuole essere, come dicono gli autori, una storia della teologia cristiana, né della Chiesa, né della religione. In sintesi, quindi, potremmo dire che l'opera non è una patrologia, in sostanza. Non è quindi l'ultima discendente in ordine di tempo del viris, del De Viris Illustribus di Gerolamo, che è l'archetipo, insomma, constata l'archetipo di tutte le successive patrologie, è qualcosa di diverso, di più, di altro rispetto a una patrologia, una semplice patrologia, semplice, tra virgolette, naturalmente, patrologia. In realtà anche qui dobbiamo dire che, sebbene gli autori presentino l'opera come una letteratura, essi danno spazio a una notevole quantità di considerazioni che sono extraletterarie, che esulano dall'ambito letterario propriamente detto. Ad esempio ci sono numerose incursioni nell'ambito teologico e religioso, soprattutto a fine di introdurre determinati generi, determinati periodi. Due esempi, la letteratura gnostica. La letteratura gnostica è preceduta da un excursus molto ampio e dettagliato su quelle che sono le origini e la natura dello gnosticismo, quindi viene inquadrata preventivamente da un lungo discorso di tipo storico-culturale. Lo stesso vale per la letteratura marcionita, sebbene in dimensioni leggermente inferiori, ma anche in questo caso abbiamo non soltanto un elenco di opere, un insieme di considerazioni che sostanziano l'esposizione dal punto di vista storico-culturale. Oppure il Vangelo di Pietro, ad esempio, estremamente interessante, viene analizzato per tutte le sue componenti antigiudaiche che conducono poi a una datazione più precisa in base a questo tipo di considerazioni che sono di carattere religioso. Quindi anche da tutto questo punto, da questo punto di vista possiamo dire che il volume è qualcosa di più, in certa misura, di una storia letteraria. Si diceva, il taglio letterario. Il taglio letterario, ma la chiave di lettura è, come dice il titolo, è storico. Non estetico formale, naturalmente, che sarebbe desueto, forse non è nemmeno il caso di dirlo, ma è storico. Storico in che senso? Chiaramente non in senso di una cronaca, non è una cronologia di scritti. È qualcosa di molto più. È una analisi della evoluzione di una letteratura. Storico nel senso che opere e generi vengono esaminati nel loro evolversi storico. Nel loro prima, un genere è esaminato nel suo prima e nel poi, con una attenzione molto particolare, molto specifica, alle sempre, devo dire, questo è molto importante secondo me, alle ragioni di questo divenire. Gli autori cercano sempre di spiegare perché è stata scritta o no, perché quell'opera c'è, perché è stata scritta, comunque perché, come si inquadra nel periodo in cui è nata. C'è una ricerca delle ragioni che è fondamentale nella storia della letteratura, perché se no ci troveremo di fronte a una serie di medaglioni, come tante volte nel passato, per cui però chi legge non capisce perché quella certa opera è nata e si chiede come mai non è nata 50 anni prima o 100 anni dopo. Ecco, quindi questa attenzione sempre alle ragioni, le motivazioni storiche delle singole opere, dei singoli generi, la loro evoluzione è, direi, una costante che attraversa tutto il volume. Quindi attenzione particolare rivolta sempre a quello che è il background culturale, storico e anche geografico, perché è importante anche in certi casi sottolineare la geografia relativa a un genere, relativa a un certo tipo di autori, perché, per dire un esempio tra i molti, insomma, la letteratura cristiana d'Africa ha un senso anche, qualche misura, naturalmente non del tutto, qualche misura anche alla luce della precedente letteratura profana che aveva creato in quelle zone, cioè Apuleio, aveva creato in quelle zone una sostanza culturale che ha favorito anche l'emergere di personalità cristiane di analogo spessore. Quindi anche le considerazioni di tipo geografico non sono fine a se stesse, ma sono inquadrate in una logica che è totale, insomma. E così pure, e lo stesso discorso vale naturalmente per tutti gli excursus o le parti introduttive di carattere storico. Io ne ricordo soltanto una, quella che precede l'età di Costantino, e naturalmente, non devo dirlo io, insomma, ma comunque Costantino, da di Costantino, la chiave di volta di tutto poi l'evolversi della letteratura cristiana, del mondo, della religione cristiana. Ecco, c'è alcune pagine che introducono tutta questa fase estremamente importante che ci consente, lette quelle, ci consente di capire poi perché nel successivo telaio storico abbiamo la nascita e la produzione di autori come Lattanzio o come Eusebio, insomma. Quindi questo è un valore propedeutico notevole per poi fruire di quello che troviamo nel seguito del volume. Ecco, quindi, essendo il libro, essendo impostato in modo rigorosamente storico, gli autori hanno eliminato quelle che erano cesure dogmatiche, ormai consolidate, ad esempio il fatto di esaminare i Vangeli apocrifi e canonici in sezioni diverse, prima i canonici, poi si passa agli apocrifi, prima l'Apocalisse, poi le altre. Questo non succede, a mio avviso giustamente, non succede perché si privilegia il genere, ossia i Vangeli come genere, che hanno una loro storia che si evolve, ci sono quelli canonici, ci sono quelli apocrifi e così via per gli atti, così via per gli altri generi, insomma. Poi starà, voglio dire, al lettore, allo studioso che legge il libro, approvare o meno quel che si dice, ma il taglio però è di questo tipo, quindi per generi in evoluzione. Ci sarebbe, non vorrei esagerare, ma ci sarebbe poi anche altri piccoli o minori pregi collaterali. Ad esempio, personalmente, ho apprezzato molto il fatto che gli autori, quando debbono considerare o discutere la datazione o la paternità di determinate opere, citino e sfruttino ampiamente le fonti antiche che ne parlano. Ecco, una che a me è cara, la Biblioteca di Fozzo, quindi ho subito visto queste. Però ho notato che viene questa fonte importante bizantina, viene sfruttata al massimo dagli autori e tutte le testimonianze vengono usate per poi dare conto di una scelta loro su una datazione, su una paternità. Quindi questo a mio avviso è molto importante perché si fondano questi giudizi sulle fonti antiche e non semplicemente sulla dossografia di oggi, insomma, che pure è importante. Ecco. Uno dei motivi ricorrenti in tutto il libro è che più interessanti senz'altro e che io mi pare particolarmente apprezzabile è il fatto che tutta la letteratura esaminata è sempre, ove necessario, scandita nei suoi rapporti con la letteratura pagana, ossia sempre, le opere sono sempre viste, specialmente i generi, le forme, sono sempre viste come qualcosa che ha a monte, come antenato, forme proprie della letteratura pagana, opere pagane, da cui la letteratura cristiana attinge o per contrasto o per eredità in qualche modo. Quindi questo, c'è sempre presente questo rapporto di continuità, di eredità e di contrasto con il mondo letterario che precede, che continua a vivere naturalmente all'interno della letteratura cristiana. Ecco, i legami tra la letteratura pagana e cristiana sono evidenti, e nel campo linguistico, e nel campo dei contenuti, e nel campo formale. Vorrei dire qualcosa, per non andare troppo oltre, per quello che riguarda i rapporti di tipo formale. Quelli linguistici sono ovvi, evidenti, insomma, nel fatto che la lingua cristiana di fatto è lingua, non fa che grosso modo recuperare la lingua pagana investendola dei nuovi contenuti, però non è così semplice. Ci sarebbero molti esempi interessanti di mostrare la ricchezza della terminologia cristiana a petto della terminologia pagana. Faccio un caso rapido: il termine mysterion, che direi un termine pagano per eccellenza, mistero. Ecco, se noi facciamo un'analisi, vediamo questo termine ha una gamma di significati, di sfumature nel mondo cristiano amplissimo, dal mistero della fede, al cerimoniale, al rito, fino all'oggetto concreto. Mysterion è anche in certi autori, ad esempio il calice eucaristico è chiamato mysterion, così che sono mysteria, sono i sacramenti, insomma, quindi... c'è un recupero della scatola, no, del contenente, e il contenuto è ricco di sfumature, insomma. Gli esempi sarebbero molti. Sul piano poi dei contenuti, naturalmente, inutile soffermarsi, ma è chiaro che l'eredità pagana nei cristiani è continua, insomma, nel libro basta citare Origene o Clemente, insomma, per capire quanto della cultura pagana resti, non per contrasto, ma per osmosi, quindi venga recepito, recuperato, insomma. Questo continuerà poi nel mondo bizantino, oppure per citare un esempio che poi ricorrerà un caso che ricorrerà nel secondo volume, l'opera ai giovani di Basilio, con tutto quello che significa per il recupero della cultura pagana, anche a fini etici, insomma. Quindi, passando per concludere all'aspetto delle forme e dei generi, nell'introduzione leggiamo questo, che per diffondere le proprie posizioni i cristiani ricorsero alle forme letterarie ellenistiche. Essi dunque hanno utilizzato generi e forme letterarie pagane per esprimere il messaggio cristiano. Ecco, nelle forme io naturalmente includerei anche l'armamentario retorico, oppure l'interpretazione allegorica, il senso lato, tutti gli strumenti letterari. Ecco, quello che trovo interessante è che questo sfruttamento delle forme e dei generi pagani è enormemente precoce nella letteratura cristiana. Ecco, già in Paolo, cioè il capostipite della letteratura cristiana, vediamo che il genere epistola viene recuperato, il genere epistola di tipo pagano, voglio dire, viene non solo recuperato, ma anche arricchito di elementi nuovi già da Paolo medesimo, che quindi non si limita a recepire una struttura, insomma, una forma, ma a sua volta agire e quindi ritoccare, riadattare la forma epistola. Pure il Vangelo di Luca, ad esempio, si riallaccia esplicitamente al genere storiografico, come evidenziano i motivi topici di cui è intessuto il prologo programmatico del Vangelo, cioè un aggancio con la storiografia. La stessa cosa vale a maggior ragione per gli Atti, che nel prologo Luca presenta gli Atti come la prosecuzione naturale del suo Vangelo, questa volontà di collegamento rispecchia un tratto tipico della storiografia precedente, la storiografia pagana, insomma, il fatto che gli autori ricollegassero una propria opera a una precedente opera, quindi anche questo ha un carattere, diciamo, topico, e così come topico pure il ricorso ai discorsi diretti fittizi, cioè non reali, ma non veri, ma verosimili. Anche questo è un elemento classico della storiografia, che è presente nel Vangelo di Luca. E la cosa su cui poi concludo, per un mio interesse, gli Atti hanno tratti comuni, gli Atti anche con il romanzo ellenistico, come evidenzia l'episodio del naufragio di Paolo. E questa affinità chiama in causa il genere agiografico, che presenta lo stesso tipo di aggancio con il romanzo, con cui concludo. Ecco, premesso che anche testi non particolarmente evoluti sul piano formale, come gli Acta Martyrum, presentano già i segni di un'elaborazione letteraria, è stato rilevato che soprattutto le vite dei santi, ma anche gli atti apocrifi degli apostoli, evidenziato questo nel libro, le vite dei santi palesano delle affinità strutturali e tematiche strettissime e dunque non casuali con il romanzo ellenistico pagano. Rimando a uno studio in proposito di Quintino Cataudella, che è illuminante per questo. In sintesi si può dire, possiamo dire che le vite dei santi e i romanzi di argomento profano si presentano come due generi in qualche modo speculari, cioè due generi che rappresentano un esempio macroscopico di simbiosi letteraria fra cultura pagana e cultura cristiana. Stando così le cose, è lecito chiedersi se le vite dei santi, al di là dell'intento edificante che è perseguito tramite moduli narrativi di un genere di successo per assicurarsi a loro volta il successo, ecco, se le vite dei santi non si proponessero di essere anche letteratura, non soltanto strumento edificante. Ecco, una letteratura che avesse lo scopo di fare una concorrenza aperta al romanzo profano. Tenuto conto anche del fatto che il genere del romanzo ha avuto un successo straordinario non solo in età ellenistica, ma sempre, fino al XV secolo. Ecco. Due esempi soli. Ecco. Il caso di Fozio, che ho già citato, che è patriarca di Costantinopoli, e il caso del monaco Michele Psello, cioè, che sono naturalmente due tra i massimi intellettuali bizantini, ma anche due cristiani di provata e indiscussa fede ortodossa. Quindi è abbastanza curioso che ci sia questa predilezione per un genere in due cristiani di questo calibro, per un genere che non aveva niente di edificante e anzi molte controindicazioni per quello che era l'etica cristiana. Ecco. In conclusione, mettendo fine alle divagazioni, tornando all'impostazione, al taglio della letteratura di cui si parla, dicendo che se scrivere una storia della letteratura cristiana significa anche scoprire e dipanare questo intreccio tra due mondi, quello pagano e quello cristiano, che confliggono ma anche si influenzano e si completano, ecco, questa storia della letteratura assolve pienamente anche questo compito.